di Simone Spezia. Sono dell'ISIS e accoltella il maestro di una scuola materna, caccia l'uomo nei sobborghi di Parigi. Il mensile del califfato in novembre aveva chiesto di colpire gli insegnanti. In forte crescita, ma non governerà neanche una regione. Il Front National non passa nelle regionali francesi, 7 presidenze all'UMP, 5 ai socialisti. Salvabanche, i clienti più esposti tra i piccoli risparmiatori sono poco più di 1000. Assedio dell'opposizione al ministro Boschi, il cui padre è stato vicepresidente di Banca Etruria. Tangenti per accedere al concorso della Guardia di Finanza. In manette, arrestati dai colleghi, 3 sottufficiali delle stesse Fiamme Gialle. Ottavi di Champions League, ecco i sorteggi: la Juventus contro il Bayern, la Roma contro il Real Madrid. Golf, l'Italia ospiterà la Ryder Cup, l'annuncio nel giorno del logo di Roma 2024. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, il 349-238-6666, tanto per gli sms quanto per i messaggi su WhatsApp. In apertura dunque in Francia, con due notizie che si intersecano in queste ore. La prima è puramente politica ed è la conclusione del secondo turno delle regionali, nel quale alla fine il Front National non porta a casa neanche una regione, ma rafforza la sua posizione in termini di voti. L'altra è di cronaca e racconta di un uomo che, proclamandosi dell'ISIS, ha accoltellato un insegnante in una scuola materna di un sobborgo parigino. Iniziamo da qua. Il dipartimento è quello della Seine-Saint-Denis, lo stesso balzato tristemente alle cronache per l'attentato allo stadio di Francia del 13 novembre, per il successivo blitz della polizia nel covo degli jihadisti e per essere stato passato al setaccio anche ai tempi dell'attacco a Charlie Hebdo. Lì stamattina, attorno alle 7.30, un uomo vestito da imbianchino con scarponi militari e incappucciato ha aggredito e accoltellato un insegnante di scuola materna che era solo in classe. La vittima è ricoverata in condizioni fortunatamente non gravi. Secondo un testimone, l'aggressore ha parlato di un avvertimento da parte dell'ISIS. L'indagine è stata affidata alla sezione antiterrorismo della polizia giudiziaria di Parigi. La sicurezza nelle scuole francesi è stata rafforzata da novembre. A tutte è stato chiesto di preparare piani di emergenza. In alcune pubblicazioni dell'ISIS circolate su internet, infatti, gli insegnanti e gli addetti ai servizi sociali sono stati indicati come bersagli perché insegnano la laicità. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E veniamo al voto, dunque, rimanendo in Francia, con i dati che ci raccontano che la chiamata alle urne dell'inedita alleanza tra socialisti e repubblicani ha lasciato a bocca asciutta il Front National. E ieri affluenza al 60% contro il 43% di 2 settimane fa, e alla fine la destra ha vinto in 7 regioni, i socialisti hanno resistito in 5 e nulla è andato al partito di Marine Le Pen, che però con oltre 6,6 milioni di voti batte comunque il suo record di preferenze. Iniziamo sentendo qualche voce. Dans un moment de gravité. In un momento grave non abbiamo ceduto niente, questo è il commento del premier socialista Manuel Valls, ma il pericolo dell'estrema destra, aggiunge, non è stato allontanato, anzi. Je veux également remercier les millions d'électeurs. E questa invece è la voce dell'ex presidente Nicolas Sarkozy, quindi del centrodestra. Voglio ringraziare i milioni di elettori che sono andati alle urne, ha commentato. Questa mobilitazione non deve in nessun caso farci dimenticare i moniti mandati ai politici. Veniamo infine alla Le Pen. Le clivage sépare non plus gauche et droite. Ora la divisione non è più tra destra e sinistra, ma tra mondialisti e patrioti, dice la leader del Front National. I mondialisti puntano a disperdere la Francia nel magma mondiale, i secondi combattono per la nostra identità di francesi. L'analisi su questo voto del corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, Marco Mossanè. I colori della Francia, così come è uscita dal voto di ieri, danno l'impressione che in fondo non sia accaduto nulla. 7 regioni in blu, la destra di Nicolas Sarkozy, e 5 in rosa, i socialisti di François Hollande, un paese bipolare come nelle democrazie occidentali che funzionano. In realtà dietro questi colori si nasconde una realtà ben più complessa e preoccupante. La destra, che alla vigilia sperava in un trionfo, vince soltanto grazie al sacrificio del Partito Socialista, che ha ritirato le proprie liste nel nord e in Provenza. La sinistra, che controllava la quasi totalità delle regioni, limita i danni solo grazie alla forza del Front National, che sottrae voti al centrodestra. Marine Le Pen, che certo puntava sulla conquista di almeno 2 regioni e invece deve incassare la prima sconfitta, ottiene comunque 6,8 milioni di voti, un risultato mai raggiunto prima, 800.000 in più rispetto al primo turno e 360 consiglieri regionali. Il pericolo insomma è sempre lì, pronto a riaffacciarsi al prossimo appuntamento, le presidenziali del 2017, che già vedono il Front Nazionale in testa al primo turno. Il cosiddetto patto repubblicano contro l'estrema destra non funzionerà per sempre. Gli elettori hanno bisogno di una visione, di un progetto, di una speranza, di risultati che cambino la loro vita quotidiana, di qualcosa che li spinga a votare per e non contro, altrimenti vinceranno la paura, la rabbia, la delusione, la sfiducia che il Front National è pronto a trasformare in consensi elettorali. Restiamo all'estero. Una parte delle truppe turche schierate nel campo di addestramento di Bashika, 30 km a nord della roccaforte ISIS di Mosul, è stata trasferita nel nord dell'Iraq e questo lo ha riferito l'agenzia di stampa statale turca. Il governo iracheno aveva protestato duramente contro il dispiegamento 10 giorni fa di nuove truppe di Ankara a Bashika, chiedendone l'immediato ritiro. Ma il fronte della lotta all'ISIS rivolge in questo momento la sua attenzione alla lacerata Libia. All'indomani della conferenza di Roma, nella quale si è ipotizzato il cessate il fuoco, un governo di unità nazionale entro 40 giorni. Il commento di Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Avremo un nuovo governo a Tripoli entro 40 giorni? Dobbiamo crederci soltanto se le fazioni libiche riterranno l'ISIS un pericolo maggiore per i loro traffici del caos in cui è precipitata da oltre 2 anni l'ex colonia italiana. Un'anarchia che affonda il paese ma che arricchisce fazioni e tribù con il contrabbando di uomini e di petrolio. Gli Stati Uniti sembrano aver messo tutto il loro peso di superpotenza per sostenere l'accordo per un governo di unità nazionale che si firma in Marocco mercoledì. Ma nella partita libica l'Italia, delle potenze esterne, è quella destinata a perderci o a guadagnarci di più. È il secondo caso che non piace troppo non solo ai nostri avversari, ma neppure ai nostri alleati. Questa volta non si scherza, sembra dire la comunità internazionale, eppure qualche cosa non torna in questa intesa mediata dall'ONU e che prevede anche un cessate il fuoco. La sensazione è che la guerra in Siria, con le sue enormi tensioni geopolitiche, prevalga su qualunque altro problema e che le potenze coinvolte guardino alla Libia come una sorta di palestra dove esercitare una politica muscolare. Siamo alle cronache del dopo decreto salva banche, che resta al centro dell'attenzione politica. Iniziamo da qualche numero diffuso sugli obbligazionisti coinvolti. Sono le 4 banche salvate dal governo a cercare di circoscrivere il perimetro della vicenda con una nota congiunta. Le casse di risparmio di Ferrara e Chieti, Banca Etruria e Banca Marche fanno sapere che sono 1.010 i piccoli risparmiatori, quelli cioè con risparmi inferiori a 100.000 euro, esposti con obbligazioni subordinate per un valore superiore alla metà del proprio patrimonio, per un controvalore complessivo di circa 27 milioni. In tutto sono invece oltre 12.500 i clienti possessori di bond per un controvalore in questo caso di 431 milioni, molto di più quindi dei 100 milioni del fondo di solidarietà previsto dall'emendamento presentato dal governo alla legge di stabilità. Proprio per questo i rappresentanti dei comitati dei risparmiatori vittime della vicenda ieri hanno chiesto al ministro dell'economia Paduan di quadruplicare le risorse del fondo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ma la polemica resta alta tanto sul decreto in sé quanto sulla figura di Maria Elena Boschi, il cui padre è stato vicepresidente della Banca dell'Etruria e del Lazio. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, l'opposizione di Fratelli d'Italia chiede che il governo ritiri il decreto per un provvedimento pari a 100 milioni spiccioli per dare i titoli ai giornali, lo dice Fabio Rampelli, mentre sul fronte Boschi il Movimento 5 Stelle prepara la mozione di sfiducia per il ministro delle riforme. Il conflitto di interessi del ministro Boschi è inaccettabile. Il governo deve fare gli interessi di tutti i cittadini, non dei parenti e degli amici del premier e dei ministri. Fai sentire la tua voce, sfiduciamola Boschi. Lo si legge proprio in un post dei gruppi Movimento 5 Stelle di Camera e Senato pubblicato sul blog di Beppe Grillo. Matteo Salvini della Lega lancia un appello ai 5 Stelle: se vogliono fare una mozione di sfiducia contro il ministro Boschi siamo pronti a collaborare, e do per scontato che anche le altre opposizioni a partire da Berlusconi siano d'accordo. Dal PD si fa quadrata attorno al ministro. Per il deputato Edoardo Patriarca è ridicolo parlare di dimissioni per il ministro. Chi le chiede non sa nemmeno perché. Lega, Movimento 5 Stelle e Forza Italia basano le loro teorie sul nulla nei confronti del ministro. È una vera caccia alle streghe. Per il momento qui da Montecitorio è tutto. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Si continua a lavorare intanto sulla legge di stabilità, il punto di oggi col nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Diciamo subito allora, Simone, che il testo è ancora in commissione bilancio della Camera e difficilmente arriverà in aula domani come previsto dal calendario. La presentazione di nuovi emendamenti da parte di governo e relatori ha infatti rallentato l'iter. Quanto ai contenuti, è di ieri sera il via libera della commissione all'emendamento che recepisce nella legge di stabilità il contestato decreto salva banche. Di questa mattina invece il sì al fondo di tutela dei risparmiatori nei confronti di acquisti fatti attraverso consulenti finanziari, fondo finanziato questo con le multe applicate dalla Consob, ed ancora anticipo di un anno dell'aumento della no tax area a 8.000 euro per i pensionati che scatta così dal 2016. Capitolo lavoro, arriva la proroga del meccanismo di disoccupazione per i collaboratori, per il quale i fondi erano limitati al solo 2015. Pacchetto sicurezza e cultura poi del governo, 2,6 miliardi ripartiti tra fondi per le periferie, 80 euro alle forze di polizia e microsatelliti, lotta al crimine informatico, 500 euro ai diciottenni per spese per la cultura e 1000 euro per gli studenti dei conservatori. E da Roma è tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta, col quale torneremo a parlare più avanti anche del tema delle banche. La cronaca con la Guardia di Finanza che indaga su alcuni suoi sottufficiali che sono finiti in manette. Laura Viggiano, buongiorno. Sì, buongiorno. Le indagini sulla trasparenza dei concorsi hanno portato ad altre 3 ordinanze di arresti ai domiciliari. Sono state eseguite dai finanzieri di Napoli nei confronti di marescialli appartenenti allo stesso corpo, 2 in servizio alla stazione navale di Napoli e 1 al nucleo di reclutamento di Roma. Sono accusati di corruzione e millantato credito. L'attività è iniziata a maggio e ha portato a verificare che i 3 avvicinavano i partecipanti al concorso per il reclutamento del personale nella Guardia di Finanza, fornendo informazioni generiche sulle prove. Promesse di interessamento che non sono andate a buon fine. In un caso sono stati richiesti e ricevuti 50.000 euro dal padre di una ragazza, peraltro un ex appartenente alla Guardia di Finanza. Poi la ragazza non è stata promossa e i soldi, ha spiegato in conferenza stampa Giovanni Salerno, comandante del nucleo di polizia tributaria di Napoli, sono stati restituiti in vista del prossimo concorso. Gli indagati sono 5, 2 gli episodi oggetto dell'inchiesta. È tutto da Napoli. E grazie a Laura Viggiano per questi aggiornamenti da Napoli. E a proposito di banche, per tornare su questo tema, ci sono innanzitutto le dichiarazioni che arrivano da Bruxelles, che un portavoce della Commissione Europea dice: sosteniamo le intenzioni del governo italiano che consentiranno ai risparmiatori di chiedere compensazioni alle banche per appunto vendita fraudolenta, ed imparare dall'esperienza di altri casi simili già avvenuti in altri paesi. E poi c'è l'intervento di questa mattina del Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, a Bologna, il quale ha parlato ovviamente non espressamente di questi 4 singoli casi, ma ha parlato per esempio dei crediti non più esigibili, ossia delle cosiddette sofferenze. Federico Mascagni ha seguito l'intervento per noi, un breve riassunto. Federico, buongiorno. Sì, buongiorno. Al convegno per i 40 anni di Prometeia, Mario Draghi traccia un ritratto di una ripresa dopo una crisi lunga 8 anni, una ripresa spinta dalla domanda interna piuttosto che dalle esportazioni. Per quanto riguarda le azioni sulle banche di cui parlavi, sottolinea che al culmine della crisi le piccole imprese segnalavano l'accesso al credito come il loro problema principale subito dopo l'esigenza di trovare clienti. Invece dallo scorso aprile l'accesso al credito è risultato tra i fattori di freno allo sviluppo dell'attività delle piccole e medie imprese, meno importanti tra quelle rilevanti dalle indagini. I termini, le condizioni dei prestiti hanno preso a convergere rapidamente verso l'assetto di cui beneficiano i grandi imprenditori, e ancora sempre sui titoli privati e pubblici la concorrenza sui mercati del credito ha spinto verso il basso rendimento dei titoli sovrani, riducendo così l'attività di questi ultimi rispetto ai prestiti, settore verso il quale si rivolge un volume crescente dell'attività bancaria. Queste sono misure che non hanno danneggiato le banche, anzi tutt'altro, hanno favorito la ripresa secondo Mario Draghi. Quindi si vede un futuro di ripresa anche che coinvolga le banche ora in sofferenza. Grazie, grazie Federico Mascagni per questi aggiornamenti. Siamo allo sport con i sorteggi di Champions e forse stanno arrivando anche quelli di Europa League, Carlo Genta, o siamo ancora in attesa? Siamo in attesa, Simone. Siamo in attesa. Invece la per l'Europa League siamo in attesa. Per quanto riguarda la Champions League, penso che peggio di così fosse difficile, perché per la Roma c'è il Real Madrid, per la Juventus c'è il Bayern di Monaco, cioè due dei grandi spauracchi si sono materializzati. D'altra parte, Roma e Juventus sono arrivate seconde nei rispettivi gironi, quindi non avevano grandi chance di evitare questo grande ostacolo. Per quanto riguarda il resto, rivedremo Ibrahimovic contro Mourinho, Paris Saint-Germain contro Chelsea, ormai un grande classico, Arsenal-Barcellona, PSV Atletico, Benfica-Zenit, che sono due turni grosso modo da Europa League, così come Dinamo Kiev-Manchester City e così come Ghent-Wolfsburg. Quindi l'urna è stata spietata, cattivissima, perché ha messo molte grandi una contro l'altra. Purtroppo non c'è andata bene. Avremo tempo, 16-17 febbraio l'andata, 23-24 febbraio le partite di ritorno, e questi sono già dei temi. Adesso aspettiamo Napoli, Lazio e Fiorentina in un'urna di Europa League che non è semplicissima, perché il livello è estremamente elevato in questa competizione. Poi è chiaro che ci sono i temi del campionato, con la Juventus che torna lo 0-0 tra Napoli e Roma, con l'Inter che prova ad andare in fuga. Insomma, giorni di pura adrenalina, Simone. Benissimo, e giorni di pura adrenalina dei quali si parlerà ovviamente in tutti i convocati a partire dalle 14. Grazie Carlo, ti ritroviamo là dunque. A dopo. Ci fermiamo intanto, ci prendiamo una pausa per sentire cosa succede sulle strade. Subito dopo torniamo a parlare di elezioni francesi e poi ancora del decreto salvabanche, i due grandi temi di queste ore. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: l'accoltellamento di un maestro di una scuola materna in un sobborgo di Parigi sono dell'ISIS, ha detto l'uomo. Il mensile del califfato in novembre aveva chiesto di colpire gli insegnanti. È in forte crescita, ma non governerà neanche una regione. 6,8 milioni di voti per il Front National, ma le presidenze delle regioni vanno 7 all'UMP, 5 ai socialisti. Salvabanche, i clienti più esposti tra i piccoli risparmiatori sono poco più di 1000. Assedio dell'opposizione al ministro Boschi, il cui padre è stato vicepresidente di Banca Etruria. Ottavi di Champions League, come avete sentito, i sorteggi vedono la Juventus contro il Bayern, la Roma contro il Real Madrid. E per commentare le elezioni francesi abbiamo in linea con noi Marc Lazar, che è professore all'Istituto di Studi Politici di Parigi, dove dirige la scuola dottorale, e anche direttore della Louis School of Government della Louis Guido Carli di Roma. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno. La prima domanda che le voglio fare è questa, professore. Abbiamo raccontato forse un po' troppo presto la vittoria del Front National, e in queste ore un po' troppo presto ne stiamo decretando la sconfitta, forse? Sì, bisogna ricordarci che è un'elezione a due turni, e al primo turno ovviamente il Front National era in testa in 6 regioni su 13, aveva fatto un record di voti, e ovviamente alla fine del secondo turno non ha vinto nessuna regione, quindi è una sconfitta sicuramente. Però nello stesso tempo mai il Front National è stato alto così in termini di voti, ha più di 6 milioni, quasi 7 milioni di voti, e significa un insediamento politico e forse sociale abbastanza forte ormai, e quindi il Front National perturba tutto il gioco politico. È stato sconfitto in termini di vittoria per le regioni, ma sicuramente è ormai un attore politico assolutamente decisivo della politica francese. Quindi non più marginale, cioè queste elezioni hanno segnato il fatto che il Front National non è più una forza politica che può essere considerata marginale, ma un attore pieno della scena politica francese. Assolutamente, il Front National è un attore politico, ci sono ormai 3 grandi insieme: un partito che è il Front National, un polo di centrodestra abbastanza diviso e un polo della sinistra anche lui abbastanza diviso. Questa è la nuova realtà politica molto originale che esce di questa elezione. Aggiungiamo però una cosa: sicuramente all'interno del Front National si aprirà un dibattito sulla strategia, perché il grande problema che hanno è di sapere come vincere. Per il momento sono forti, pesano molto, ma sono isolati, e appena alcune ore fa il numero due del Front National, ha detto forse bisognerebbe allearsi con un piccolo partito sovranista repubblicano che si chiama Debout la France, Forza la Francia sarebbe, che fino ad oggi ha sempre rifiutato questa idea di alleanza. Ma Philippot, il numero due del Front National, ha capito che ormai bisognava allargare il consenso elettorale per vincere veramente. Questo proprio perché vige, come abbiamo visto per le regionali, ma anche per le presidenziali, un sistema a due turni. Quindi se al secondo turno hai solamente i tuoi, alla fine non vinci. Assolutamente, e ovviamente tutti gli attori politici stanno pensando adesso alla prossima scadenza, che è l'elezione presidenziale. L'elezione presidenziale si gioca a livello nazionale a due turni. Quasi sicuramente possiamo dire oggi che il Front National, cioè Marine Le Pen, sarà presente al secondo turno. Questo mi sembra indiscutibile. Lei sarà presente al secondo turno, però se vuole vincere bisogna per lei allargare ancora il bacino di voti. Per il momento non è stato capace di farlo. Infine, il voto comunque di questo fine settimana è un voto chiave, come ci diceva professore. Secondo lei questo cambiamento politico, che porta di fatto a un tripartitismo, è un cambiamento politico definitivo o, come dire, una sorta di fiammata e dobbiamo aspettare che si sgonfi nei prossimi anni? Guardi, questa domanda è complessa. Innanzitutto non dobbiamo parlare di tripartiti, dobbiamo parlare di tre grandi raggruppamenti: uno legato a un partito, il Front National, e due altri poli, centrodestra e centrosinistra, divisi tra di loro. E questo è un elemento importante da avere in testa. Sì, mi sembra che ormai in Francia ci sarà una tripartizione piuttosto che un sistema a tre partiti, una tripartizione durevole, che dovrebbe durare molto tempo, salvo se c'è una grande ricomposizione politica, di cui si inizia a parlare molto e anche stamattina diversi dirigenti socialisti lo propongono. L'idea sarebbe di dire, invece di avere una posizione, un gioco politico con tre componenti, di avere finalmente una doppia componente: da una parte il Front Nazionale, forse altri estremisti che vogliono una politica contro l'Europa, un ripiegamento totale della Francia su se stesso, e d'altra parte un grande alleanza del centro-sinistra e del centro-destra, che hanno piccole divergenze economiche, piccole divergenze sociali, ma che hanno due punti comuni: la voglia di fare una politica di grande apertura e di, secondo elemento, costruire l'Europa, ricostruire l'Europa, rilanciare l'Europa, rinnovare l'Europa. Non so se si farà, perché ci sono molti ostacoli, ma per la prima volta da molto tempo in Francia se ne parla. La ringrazio. Grazie al professor Marc Lazar, presidente della School of Government della Luis Guido Carli di Roma. Un paio di notizie prima di andare a fermarci un attimo e andare a sentire che cosa succede sui mercati. Innanzitutto che è in corso davanti al GIP del Tribunale di Ragusa la convalida del fermo di un cittadino siriano sbarcato a Pozzallo lo scorso 4 dicembre e fermato perché sospettato di essere un terrorista legato all'ISIS. La sua appartenenza sarebbe comprovata, così si sostiene da fonti giudiziarie citate dalle agenzie e dalle immagini trovate sul suo cellulare. La seconda, abbiamo il primo sorteggio dell'Europa League, la Fiorentina affronterà il Tottenham nei sedicesimi. Pausa la borsa e poi dopo torniamo a parlare di banche. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nelle notizie principali, è stato fermato un siriano dopo lo sbarco inizio dicembre a Pozzallo, è sospettato di essere un terrorista. Intanto a Parigi è stato accoltellato il maestro di una scuola materna da un uomo che ha detto sono dell'ISIS. È in forte crescita, ma non governerà neanche una regione, il Front National, 7 presidenze all'UMP, 5 ai socialisti. Salvabanche, i clienti più esposti tra i piccoli risparmiatori sono poco più di 1000. Tangenti per accedere al concorso della Guardia di Finanza, in manette arrestati dai colleghi 3 sottufficiali delle Fiamme Gialle. Ottavi di Champions League, ecco i sorteggi: Juve contro il Bayern, Roma contro il Real Madrid, sedicesimi di Europa League, la Fiorentina contro il Tottenham, la Lazio contro il Galatasaray. La borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, il punto metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Prima vi aggiorniamo sull'ultimo dei sorteggi di Europa League che mancava, quello del Napoli. Ai sedicesimi giocherà contro il Villarreal. Ve lo stiamo dando non perché questa sia una trasmissione sportiva, naturalmente, ma semplicemente perché sono le notizie che arrivano in questi minuti. Vi ripetiamo gli altri: la Lazio contro il Galatasaray e la Fiorentina contro il Tottenham. Noi torniamo invece a parlare di banche. Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buongiorno e bentornato. Grazie, buongiorno a voi. Oggi finalmente abbiamo i numeri di quanti risparmiatori sono coinvolti. Sì, diciamo che abbiamo numeri più puntuali, nel senso che l'ammontare complessivo dell'operazione ormai da giorni lo conosciamo, più di 3 miliardi, però abbiamo potuto appurare che i risparmiatori coinvolti sono circa 12.000, di cui però per un migliaio soltanto di loro diciamo il danno subito nell'operazione, quindi con un investimento in termini di obbligazioni che di fatto è stato azzerato, ecco, soltanto per un migliaio sarebbe stato, diciamo, un grosso danno, perché quella perdita corrisponderebbe a più della metà del loro patrimonio. Questo vuol dire che sono risparmiatori non solo, diciamo, danneggiati, ma che hanno subito anche un danno in assoluto molto pesante. Eh certo, quindi sono innanzitutto piccoli risparmiatori con un patrimonio sotto i 100.000 euro, o intorno ai 100.000 euro, ci sembra di aver capito, e poi appunto che hanno perso molto sostanzialmente. Esatto, più della metà, diciamo, dei loro risparmi. Come leggiamo anche dalle cronache dei giornali di questi giorni, spesso si tratta di pensionati che magari hanno messo lì la liquidazione, oppure piccoli risparmiatori che hanno messo lì quello che avevano sul conto, che quindi magari pochi anni fa è stato trasferito dal conto corrente, che in questo caso sarebbe evidentemente stato tutelato, a quei prodotti obbligazionari che rendevano molto di più. Ecco, dei 12.000 privati, diciamo così, perché poi c'è un'altra fetta di tutti gli investitori istituzionali che avevano quei titoli e che anche per loro ovviamente sono stati azzerati, ecco, di quei 12.000, per 1.000 e poco più si tratta di una pesante perdita, che probabilmente, anzi diciamo quasi sicuramente, poi ci sarà una serie di filtri evidentemente da passare, saranno rimborsati da quel fondo di 100 milioni che verrà istituito di qui a breve, in base anche a quello che ha detto il ministro Padoa. Risarciti o ristorati almeno parzialmente. Marco, si è capito qualcosa di più su come dovrebbe funzionare questo fondo? Sì, nel senso che anzitutto si è capito chi ci metterà quei 100 milioni, e sono le banche sane attraverso il fondo interbancario di tutela dei depositi che verseranno quindi questi 100 milioni. Diciamo che quanto spetterà ognuno verrà deciso da un arbitro collegiale che dovrà essere nominato dal governo con un decreto. Inizialmente si era parlato di Consob, non sarà Consob, sarà appunto questo, diciamo, nuovo organismo che verrà costituito per l'occasione. Ti ringrazio, grazie a Marco Ferrando del Sole 24 Ore per averci aiutato a fare anche un po' di cronaca di nuovo nella giornata di oggi. Vi ricordo che tra l'altro sabato il Sole 24 Ore e tutto il nostro gruppo editoriale ha lanciato un manifesto per la tutela del risparmio in 5 punti che vanno a toccare appunto alcuni elementi delicati che sono emersi durante la vicenda anche del piazzamento di queste obbligazioni subordinate da parte di alcune di queste banche. Noi cambiamo decisamente argomento, abbiamo parlato di sport prima, ci sono anche grandi eventi in arrivo. Innanzitutto la Riders Cup, che è questo importante torneo tra Europa e Stati Uniti di golf che si giocherà a Roma nel 2022, ma oggi è stato anche presentato il logo di Roma 2024. Sentiamo. Sfuma in una pista di atletica e parte proprio dall'immagine del Colosseo stilizzato, simbolo della capitale, ma tricolore come la bandiera italiana. Depositato lo scorso 22 luglio dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Mise, è questo il logo che accompagnerà il sogno della candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024, che ha fatto il suo ingresso ufficiale in una cerimonia al Palazzetto dello Sport. Il perché lo spiega lo stesso presidente del CONI, Giovanni Malagò. Il logo per i giochi del 2024 è bianco, rosso e verde, perché questa non è una candidatura di Roma ma dell'Italia. Per il presidente del Comitato Promotore di Roma 2024, Luca Di Montezemolo, oggi mandiamo un messaggio forte al CIO, a Losanna, ai nostri competitor Parigi, Los Angeles e Budapest. Noi vogliamo i giochi, lavoreremo giorno e notte tutti insieme per ottenerli. I tre poli dove saranno materialmente organizzati i giochi, se verranno assegnati a Roma, saranno quelli del Foro Italico, di Tor Vergata e della Fiera di Roma. L'Italia, infatti, punta in alto e dopo Expo 2015 e i mondiali di volley del 2018 potrebbero arrivare anche le Olimpiadi 2024. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi, come ormai sapete, versione lievemente più corta di Effetto Giorno. Abbiamo un anticipo di America 24 e poi ci sarà nell'ultima parte, nell'ultimo quarto d'ora, dalle 13.45 alle 14, va in onda la nostra rubrica sull'autotrasporto. E quindi ci fermiamo qua per il momento, sentiamo che cosa ci racconta oggi il nostro Mario Platero e ci risentiamo tra poco per i saluti.